chi siete? Come Cestari. Come? Cestari, con la C. Ci sei, sì. Beh, tu non ci sei? No, io sono ancora a Trieste. Ah, non... No, io sono esterno ancora. Mi dispiace. Io sono uditore. Beh, cioè, qui ci sono 27 iscritti e quelli che sono qua sono praticamente... C'è la ragazza che ha Ferrari, Francesca. Sì. Chi è da qua? Io ho fatto il corso... No, 2 anni fa forse. No, l'anno scorso. No, beh sì, mi ricordo sì. Che c'eri. Beh, io comunque vi segno, eh. Non so sì, se non so se riuscirò a tornare cioè, con frequenza, però. No, non ha nessuna importanza. Mi ripeti dove? Ferraro. Ferraro. Sì, le avevo scritto una volta per vederci, poi alla fine mi aveva proposto di venire a Bologna, poi alla fine non ce l'ho fatta, non ho neanche scritto. Sì, sì. Beh, firmate, non mi ricordo se firmavi l'anno scorso. Ma sì, firmavo, ma per scopo, ma che non si è servito. Dunque, io inizierei allora questa lettura. E inizierei la lettura dell'intervista a Maurizio Lazzarato. Maurizio Lazzarato è un italiano che vive in Francia, in realtà è più francese. Il libro è uscito in Francia col titolo L'homme endetté, l'uomo indebitato, e già da qualche tempo. Lazzarato ha lavorato molto su temi filosofici che discendono dal pensiero di Deleuze e Guattari, tanto per situarlo nel panorama filosofico contemporaneo, e però si occupa da sempre del rapporto fra economia e linguaggio, diciamo così, piuttosto economia e arte, economia e video. E questo suo libro, che in italiano è tradotto col titolo La fabbrica dell'uomo indebitato, e probabilmente diciamo è fra le cose più interessanti che sono in circolazione in questo momento su questo tema, e io adesso farò una piccola bibliografia che vi farò avere presto e direi che questo è uno dei titoli che vi consiglio senz'altro e che saranno al centro del corso. E adesso, magari non oggi che siamo così pochi, però una di queste volte io comincerei a raccogliere i vostri indirizzi email, perché così vi faccio avere del materiale. La bibliografia per gran parte ve la mando in email, nel senso che vi mando dei suggerimenti bibliografici, ma anche vi mando dei testi. Per esempio, il libro di Graeber, Debt, non è ancora tradotto in italiano, so che lo sta pubblicando il saggiatore, ma ancora non è disponibile. Quello però io ce l'ho in inglese e ve lo faccio avere in versione elettronica, magari non tutto, magari alcune parti che possono esservi più utili, ma insomma alcune cose ve le faccio avere io, anche perché gran parte della bibliografia di cui parleremo è bibliografia che si sta scrivendo in questo momento, insomma è proprio stiamo lavorando, se così posso dire, sul come si dice, sul punto in assoluta evoluzione del discorso della critica economica, della critica filosofica contemporanea, quindi non è nemmeno detto che i suggerimenti biografici che vi do io siano proprio quelli, magari fra un anno scopriamo che il campo è già modificato, ma insomma è meglio così che occuparci di cose morte. E purtroppo questa è una cosa mortale, ma non è morta. Tant'è vero che per occuparci iniziamo da un giornale, già anche questo è significativo, cioè se vogliamo sapere quello che sta succedendo sul piano teorico, sul piano interpretativo, è più utile andarsi a leggere un articolo di attualità che un libro, in questo caso un articolo che parla di un libro. Il debito è il motore economico e soggettivo dell'economia contemporanea, cuore strategico, fin dall'inizio, delle politiche neoliberiste, basate ieri sulla formazione e oggi sulla riparazione di enormi deficit pubblici. Ciao Tommaso. Di enormi debiti pubblici, cuore pulsante delle politiche di costruzione della soggettività, basate ieri sull'etica del consumo e del godimento, oggi sull'etica del sacrificio e della colpa. Già qua, in questa prima frase, c'è una quantità di riferimenti che dovremmo riuscire a decodificare, impressionante. Ida Dominiani è certamente uno dei personaggi, per quello che ne so io, è una giornalista, ma è anche una che insegna filosofia all'Università di Roma, fa parte del gruppo di femministe che un tempo pubblicavano una rivista che si chiamava Diotima, vicina a Luisa Muraro, quindi insomma Ida Dominiani non è proprio una giornalista nel senso che ci racconta cosa è successo ieri all'angolo della strada, è un personaggio di primissimo piano del mondo intellettuale italiano, e il modo in cui inizia è molto denso. Il debito è il motore economico e soggettivo dell'economia contemporanea, dunque economico e soggettivo, distinzione che vale la pena di sottolineare. L'economia, ovviamente l'economia implica la soggettività, ma la soggettività è una dimensione specifica del campo economico, e quel che subito Dominiani ci dice è che il debito non è solamente un elemento del gioco economico, ma è un elemento della motivazione psichica a partecipare o non partecipare all'interno del gioco economico. Dunque è un elemento di motivazione soggettiva, diciamo così. Il debito dunque è il motore economico, nel senso che oggi gran parte delle dinamiche economiche si giocano, come sappiamo, intorno alla questione del debito, ma è anche soggettivo, cioè l'elemento motivazionale che spinge a fare o a non fare. cuore strategico, fin dall'inizio, delle politiche neoliberiste. Cosa sono le politiche neoliberiste? Neoliberismo. Neoliberismo è una parola che entra nel lessico politico ed economico a partire dagli anni 70 e che viene introdotto nella discussione da un gruppo di economisti che passano sotto il nome di Chicago Boys o Chicago School, la scuola di Chicago. Milton Friedman è un gruppo di altri economisti che negli anni 70 ragionano sulla questione della crescita economica e del rapporto fra economia e finanza, sostenendo alcune tesi che in parte sono nuove, in parte sono la ripresa delle tesi del liberismo classico. Cos'è il liberismo classico? Per riferirsi al liberismo classico, ottocentesco, dobbiamo fare il nome di Adam Smith, che tutti conoscono come il fondatore della scuola economica cosiddetta liberista, e tanto non c'è il processo, qua lo Smith, fantastico, chiamo Adam Smith, e Adam Smith scrive un libro. The Wealth of Nations, la ricchezza delle nazioni, in cui essenzialmente parla del rapporto tra tra mercato, produzione, mercato e Stato e dimensione pubblica. Provenendo da un'epoca che era stata l'epoca dell'assolutismo, l'epoca della costruzione statale e centralizzata dell'economia capitalistica, della classica economia borghese capitalistica, Smith e gli altri pensatori liberisti si pongono il problema della libertà d'impresa rispetto al governo politico esercitato dallo Stato il loro problema principale è quello di affermare la autonomia, l'indipendenza, la libertà, per usare questa parola che sarebbe meglio usare un po' di meno perché carica di troppo implicazioni il discorso, ma insomma è un espediente retorico. Ogni volta che sento una parola con l'accento sulla A annuso l'inganno. La libertà della dinamica economica rispetto a qualsiasi fattore di tipo statale, questo è l'argomento fondamentale. Per sostenere questo argomento, Adam Smith elabora una ipotesi secondo cui, un numero X di operatori economici, il loro gioco, la loro relazione produrrà i migliori risultati per tutti, se questi verranno lasciati liberi di agire nel loro individuale stretto interesse, cioè l'affermazione dell'interesse individuale di tutti gli operatori nel lungo periodo produrrà un equilibrio, il più perfetto possibile equilibrio fra questi fattori. Se ascoltate bene il ragionamento, vi rendete conto che c'è un'analogia con un altro grande sistema di pensiero di quell'epoca, quella della selezione naturale elaborato da Charles Darwin. il quale dice nel lungo periodo la relazione naturalmente libera, perché lì non c'è Dio, non essendoci Dio, Darwin lo sa, era stato informato del fatto che Dio non c'è, e dunque non c'è nessun governo del processo naturale, e questo processo naturale porta nel lungo periodo ad una all'ottimizzazione delle risorse di cui la natura dispone, perché chi è più fit, chi è più adatto ad affermarsi, finirà per prevalere, e dunque solo i migliori nel lungo periodo emergeranno, e questo determina una selezione migliorativa della specie. Ora, il ragionamento, diciamo, questa, chiamiamolo darwiniano per intenderci, è un ragionamento che ha una forza sul piano scientifico, una forza esplicativa notevole. Naturalmente ci si può chiedere se la obiettività della scienza, della descrizione scientifica naturalistica possa essere trasferita sul piano etico, sul piano politico e sul piano generalmente, diciamo, delle cose in cui agisce la volontà e la scelta umana. Ecco, lì questo è un problema. Cioè, dobbiamo noi pensare che la società umana deve conformarsi alla legge di natura, per cui chi è più forte deve eliminare chi è più debole, come sappiamo accade nella giungla? Si può rispondere di sì o di no, e non è scontato che la risposta debba essere no. Smith risponde no. Risponde sì, sì, è giusto che sia così. Perché? Perché, lui aggiunge, spiegandolo e motivandolo in termini di analisi economica, perché nel lungo periodo, c'è sempre questo lungo periodo che ci frega, perché noi purtroppo viviamo nel breve periodo, ma nel lungo periodo c'è un meccanismo di autoregolazione dei mercati, che lui definisce the invisible hand, una mano invisibile che regola i rapporti fra coloro che agiscono nella sfera del mercato, cosicché gli imprenditori, coloro che offrono merci, tenderanno a migliorare la qualità della loro offerta e ad abbassare il prezzo dei loro prodotti in funzione della concorrenza e di un predominio nei confronti degli altri agenti, e questo alla fine favorirà il pubblico dei compratori, e quindi nel rapporto fra la domanda e l'offerta si verrà a determinare il più razionale degli equilibri possibili. E siccome il rapporto fra domanda e offerta non regola solamente lo scambio di merci, ma anche lo scambio fra lavoro e capitale, anche nel rapporto fra lavoro e capitale nel lungo periodo si determinerà un equilibrio che è l'equilibrio più favorevole sia al capitale che al lavoro. Punto. Questo è, diciamo, in estrema sintesi, il pensiero che Adam Smith consegna all'economia dell'Ottocento. Poi succedono tante cose nell'epoca successiva. Succedono, per esempio, una serie di crisi economiche che sconvolgono a più riprese il sistema capitalistico, fino a quando nel Novecento, inoltrato nel 1929, arriva quella che è probabilmente la crisi più sconvolgente che il capitalismo industriale abbia mai conosciuto, e in seguito a questa crisi del 29 viene il pensiero rigorosamente liberista, viene un po' abbandonato, perché qualcuno pensa, ma se qui la libera azione di tutti gli agenti economici produce degli effetti così disastrosi come quello che stiamo vivendo in questo momento, vuole dire che c'è qualcosa che non funziona. E dunque bisogna tenere conto della volontà umana, volontà politica, come uno degli elementi del gioco. Ecco allora che si introduce un elemento di regolazione politica del mercato. Questo naturalmente si iscrive all'interno di un mutamento di pensiero che aveva già, nel 1929, aveva già delle radici profonde, perché contro il pensiero liberale o liberista di Adam Smith già si erano pronunciati dei filosofi o degli economisti che generalmente, genericamente, avevano preso il nome di socialisti nel corso dell'Ottocento. Primo fra tutti, naturalmente, Carlo Marx. Questi economisti avevano studiato le dinamiche spontanee del mercato per scoprire che le cose non erano così idilliache come le descrive il pensiero liberista. E al centro di tutto, Carlo Marx aveva visto un elemento fortemente contraddittorio, e cioè nel rapporto capitale-lavoro aveva visto una sorta di, come posso dire, inadeguatezza nel rapporto fra ciò che il lavoro produce e ciò che il lavoro ottiene in cambio della sua prestazione. Marx aveva scoperto una cosa che viene chiamata plusvalore, cioè scopre che la dinamica fondamentale dello sviluppo capitalistico, ovvero sia la accumulazione di capitale, quel processo grazie al quale il capitalista investe 100 dollari per ricavarne alla fine del ciclo 120, poniamo, e quindi espandere la base produttiva. In questa dinamica Marx aveva visto uno scarto, una disarmonia, una contraddizione, che consiste nel fatto che l'operaio produce di più di quello che riceve in cambio. Ecco, naturalmente ci sono poi mille ragioni di questo accada, ma su questa differenza, su questo scarto, Marx aveva visto costituirsi una serie di contraddizioni che portano alle crisi. Marx aveva parlato ad esempio di crisi di sovrapproduzione, perché aveva detto: ma qua se si producono una massa di merci e la società dispone di una massa monetaria che non può comprare tutte quelle merci, finisce che poi le merci si accumulano fino al momento in cui ci sono troppe merci e dunque si comincia a chiudere qualche fabbrica e dunque a licenziare operai e dunque a ridurre il salario complessivo, e se questo accade inizia un processo che ha carattere di spirale, perché la sovrapproduzione determina una riduzione del lavoro occupato, la riduzione del lavoro occupato determina una riduzione del salario disponibile, questa a sua volta alimenta la sovrapproduzione. Ecco che si mette in moto la crisi di sovrapproduzione, la chiama Marx. Allora, Marx aveva proposto, in realtà Marx non ha proposto delle grandi soluzioni, anzi a un certo punto dice anche: io non scrivo ricette per la trattoria dell'avvenire, cioè il mio compito non è quello di dire come sarebbe bello il mondo se fosse così e cos'ha. Nessuno può dire come il mondo deve essere. Il mio compito, dice semmai Marx, è quello di seguire la evoluzione del processo di produzione capitalistica e delle sue contraddizioni, di seguirlo dall'interno in modo tale da rendere conto di una tendenza che si va affermando all'interno del delle crisi del capitale. Tendenza è una parola interessante, eh? Che cos'è in fondo il pensiero politico in quel caso lì, nel caso di Marx in particolare? Noi possiamo pensare che il pensiero politico sia... Ma è tendenza, tra l'altro, è anche un termine che si può utilizzare nel mondo della finanza. Beh, certo che sì. Beh, si può usare... Sì, no, nel senso che... Dovunque tu trovi dei fenomeni che si svolgono nel tempo, puoi parlare di una tendenza. Cos'è la tendenza? Un ipotetico... serie di punti verso... emergenze, sì, che si susseguono, che si possono leggere come una riproposizione. Come si passano? Emergenze che si possono leggere come una riproposizione, cose che si ripetono e tendono da qualche che tendono, cioè, siccome viene da tendere, è una, diciamo, una direzione verso cui il processo tende. Cioè, se noi vediamo una freccia che parte così, possiamo dire che tende a conficcarsi in quel punto del muro. Il fatto che tenda a fare quello non vuol dire che lo farà, sia ben chiaro, perché può capitare qualcosa per cui si conficca in un occhio di Luca. Cioè il processo tendenziale non è necessariamente destinato a... Questo è importante, perché noi individuiamo delle tendenze e dobbiamo tenere conto del carattere complesso del contesto e quindi del carattere indeterminato, incerto, aleatorio. Questo che intendevo dire con il fatto della finanza, perché gli investimenti poi si fanno su delle tendenze, naturalmente, ed è questo che... di cui noi possiamo prevedere qualcosa, ma non tutto, dato che il contesto è infinitamente complesso. Ecco, questa poi la questione della complessità è una questione che acquista un rilievo crescente nella storia del nostro tempo. Comunque Marx dice, io non sto qui a dire bisogna che lo Stato faccia questo, faccia quello, non è mio compito di un pensatore critico, non è raccontare il futuro, elaborare utopie, come facevano molti, Proudhon, Owen, sono altri pensatori socialisti, critici del capitalismo, che dicono bisogna fare delle grandi comuni, il falansterio, distribuire le cose così e cos'ha. Marx si astiene dal elaborare ricette del futuro. Vediamo chi è. Scusatemi, ho dimenticato di spegnere. Chi era? E dice piuttosto, Marx ha detto da qualche parte, non scrivo ricette per la trattoria dell'avvenire, non ha tanto lavoro, non ha spiegato molto il metodo tendenziale, o se l'ha spiegato, l'ha spiegato in maniera un po' misteriosa, in un'opera che si chiama Lineamenti fondamentali per la critica dell'economia politica, i Grundriss, che è, diciamo, l'opera più complessa di Marx, che rimane un po' nascosta, pubblicata solo negli anni 60 del nostro secolo, quindi non era nota al marxismo novecentesco. Lenin non conosceva i Grundriss, e di fatti guarda un po' come è andata a finire. Il problema è quello di individuare la tendenza. E cos'è la tendenza? All'interno del rapporto fra lavoro e capitale vi è una contraddizione che si manifesta nella forma del plusvalore, si manifesta nello scarto tra salario e prodotto complessivo e massa delle merci e così via. Ma il gioco complesso delle relazioni tra lavoro e capitale fa sì che il capitale tenda a ridurre la massa del lavoro attraverso l'introduzione di automatismi tecnologici. Tutta la storia dello sviluppo capitalistico si accompagna con l'introduzione di tecnologie che sostituiscono lavoro, quindi con la riduzione del tempo di lavoro necessario. E qui Marx, nel libro che dicevo prima, in una parte di quel libro che si chiama Frammento sulle macchine, che è la parte più nota del Grundrisse, gli dice proprio: ma col tempo noi arriveremo a un punto che il capitale ridurrà il tempo di lavoro necessario a una quantità minima, irrisoria, perché tutto verrà assorbito da quello che lui chiama il general intellect, cioè dalla potenza della tecnica e della scienza. La scienza, l'intelletto generale, diventerà il vero fattore produttivo, mentre il lavoro materiale tenderà a diventare una quantità sempre più irrisoria, non ce ne sarà più bisogno. Non ce n'è più bisogno, questa è la verità che noi stiamo vivendo. Qui c'è poco da fare, non c'è nessuna possibilità. Dice: ah no, ma bisogna rilanciare l'occupazione. E per farci che? Bisogna che la gente, abbiamo bisogno di creare lavoro. E perché? Perché? Dove sta scritto che occorre lavorare? Ecco, questo è il grande dogma del pensiero politico, che il lavoro è sacro. Se non c'è lavoro, allora non c'è il diritto al salario, non c'è niente. Ma il problema è che di lavoro non ce n'è più. Quel nazista che si chiama Sergio Marchionne comunica al tempo stesso che rispetterà i patti, però che nel mese di aprile il mercato dell'auto crolla del 40%. Ma viva Dio! Ecco, finalmente la gente non compra più automobili. E invece bisogna disperarsi, bisogna convincere la gente a comprare automobili, così potremo costringere qualcuno a lavorare, costringere. Sì, insomma, permettere a qualcuno di lavorare, altrimenti dobbiamo licenziarlo. A nessuno viene in mente che basterebbe dimezzare l'orario di lavoro e ci sarebbe lavoro per tutti. E ci sarebbe quel tanto di lavoro che è necessario attualmente allo stato attuale dello sviluppo tecnologico. Ma dire questo equivale a essere trattato come un pazzo scatenato. Perché? Perché noi viviamo all'interno del dogma assoluto dell'economia di mercato, di un'economia in cui il valore del lavoro, la centralità del lavoro è intoccabile, allo stesso modo da parte del capitalista, che pure calpesta i diritti del lavoro, e mentre li calpesta però li esalta al tempo stesso, e così anche da parte delle ideologie della sinistra. Ecco, Marx nel Frammento sulle macchine ha descritto una tendenza, non ha detto deve andare così, deve andare così. Ha detto semplicemente: così come io vedo l'evolversi del rapporto tra lavoro, capitale, sapere e tecnologia, posso dirvi che la tendenza è quello verso una riduzione del tempo di lavoro necessario. Marx non dice lavoro, dice lavoro necessario. Necessario a che? Necessario a produrre ciò di cui la società ha bisogno, quel lavoro lì tende a diventare sempre più piccolo, in una quantità irrisoria, dice Marx ad un certo punto. Questa è la tendenza, ma la tendenza non è destinata a realizzarsi, perché una serie di fattori ideologici, politici, economici, tecnologici possono modificare in un senso o in un altro, per cui la tendenza ha continuato a persistere, ad accentuarsi, e negli ultimi decenni si è messa anzi ad andare precipitosamente, perché la tecnologia è sempre più potente e quindi sempre più capace di sostituire lavoro. Ma pur continuando la tendenza a manifestarsi, non è riuscita, per ragioni molto complicate, ma essenzialmente politiche, culturali, non è riuscita a dispiegarsi linearmente. È stata, per così dire, in mille maniere ostacolata, contrastata, governata, in maniera tale da produrre degli effetti assolutamente perversi rispetto allo svilupparsi della tendenza in se stessa. Io stavo leggendo Dominiani, no, ma perché ho parlato di questa questione della tendenza? Perché, diciamo, quando ci occupiamo di un fenomeno sociale, noi possiamo, naturalmente possiamo esprimere delle opinioni di tipo valoriale, dire mi piace o non mi piace, è bello o è brutto, ma è giusto o è ingiusto, rispetto a quali valori, dove sta scritto che una cosa è giusta o una cosa è ingiusta. La cosa che consiglia il metodo di Marx non è di esprimere dei giudizi di valore, ma di andare a leggere le tendenze e di vedere sulla base delle tendenze che cosa può funzionare in maniera positiva o negativa rispetto a cosa. Perché poi lì c'è anche chi decide che una tendenza gli fa piacere oppure no, lo decidono gli interessi delle classi sociali che si trovano in conflitto. E naturalmente il punto di vista che assume Carlo Marx è il punto di vista degli interessi della classe operaia, che però poi nel corso del tempo diventa una cosa molto diversa da quella che era ai tempi di Carlo Marx, quindi la questione viene complicata dallo sviluppo di una società che è molto diversa da quella società relativamente semplice in cui si poteva distinguere il capitale, il borghese e l'operaio come due figure in qualche misura pure di interesse sociale. E nello sviluppo che noi abbiamo conosciuto nel corso del Novecento questa contrapposizione si è molto modificata, molto complicata. Per finire il neoliberismo, ho iniziato con il neoliberismo. Dunque Adam Smith elabora questa idea della mano invisibile. Poi succedono un sacco di cose, la critica socialista, qualche stato nazionale prende sul serio i suggerimenti dei socialisti. Per esempio un signore che si chiama Ottone di Bismarck, che è cancelliere nella Germania della fine dell'Ottocento, intorno al 1870, Bismarck, in una situazione sociale in piena evoluzione in Germania, decide di introdurre alcuni elementi di tipo socialista nella struttura dello Stato tedesco. Per esempio, introduce delle forme di redistribuzione del reddito, cioè tassa coloro che hanno molti soldi per favorire lo sviluppo di trasporti pubblici, di strutture pubbliche. Nasce l'idea dello Stato sociale, che è uno Stato nel quale il reddito viene redistribuito attraverso l'imposizione fiscale. E Ottone di Bismarck giunge fino al punto di fare una innovazione straordinaria nella storia dell'economia moderna, che è quella della previdenza e della pensione. Cioè i lavoratori possono accumulare i loro danari, consegnarli allo Stato e lo Stato glieli restituirà quando non saranno più in grado di lavorare perché sono diventati troppo anziani. La storia della pensione è naturalmente decisiva nella storia della civilizzazione moderna. Uno degli elementi fondamentali, come sapete, oggi l'istituto della pensione è sottoposto ad un attacco senza precedenti. Ormai l'attacco si è concluso, nel senso che la pensione più o meno non esiste più. E come voi sapete, la classe dirigente, la classe finanziaria, per attaccare la pensione ha usato uno stratagemma ideologico che per larga parte sta funzionando, che consiste nel dire che i giovani sono precari e la colpa è dei vecchi che vogliono smettere di lavorare. Ora, c'è un'evidente contraddizione in questo ragionamento, anzi è talmente evidente che viene da chiedere perché la gente non si mette a ridere quando sente questa cosa. Ma invece la cosa funziona sul piano ideologico. Che si tratti di una baggianata è evidente anche ad un intelletto semplice. Dunque, se i giovani non trovano lavoro è perché i vecchi non vanno in pensione. Se i vecchi andassero in pensione prima, i giovani troverebbero più posti di lavoro. Invece succede che prolungando il tempo di lavoro di un lavoratore anziano, in questa maniera il lavoratore anziano percepisce il suo stipendio e non la pensione. Il lavoratore giovane viene costretto o nella disoccupazione oppure a svolgere lavori che sono pagati malissimo per la semplice ragione che permane la concorrenza di un lavoratore anziano che non è andato in pensione. Ecco che in questa maniera, attraverso il prolungamento del tempo di vita, si è determinato un enorme appesantimento dell'intero mercato del lavoro, che penalizza essenzialmente i giovani. Adesso, nell'ultimo giro di vite, quello più insomma, succede che la pensione è stata, come sapete, rinviata fino all'età di 67 anni, però contemporaneamente ci si rende conto del fatto che i lavoratori anziani non li vuole più nessuno e quindi i lavoratori anziani vengono al tempo stesso rinviati, la loro pensione viene rinviata, però vengono in larga massa licenziati, cosa che sta accadendo nella storia dei cosiddetti esodati, e con il risultato che questi si trovano in una condizione di immiserimento improvviso e totale. Contemporaneamente si creano delle forme di lavoro che formalizzano il precariato attraverso l'apprendistato, attraverso varie forme di precariato mascherato, e il risultato sarà che i giovani forse troveranno un po' più di lavoro, ma questo lavoro sarà a condizioni salariali disastrose e in condizioni di totale aleatorietà e di totale dipendenza. Il risultato sarà che il padre 55enne, in attesa di una pensione che arriverà 12 anni dopo, dovrà farsi mantenere dal figlio che guadagna un quarto di quello che guadagnava il padre fino al mese precedente. Più o meno questo è il quadro che si va disegnando. La pensione, dunque, Bismarck, alla fine del 1800 viene introdotto questo principio che poi si generalizzerà nel corso del Novecento. Quindi ci sono alcuni elementi di stato sociale che emergono alla fine dell'Ottocento e che però diventano un fatto decisivo solo dopo il 1929, quando un economista inglese di nome John Maynard Keynes capisce e propone che in una situazione di crisi, definibile essenzialmente come crisi di sovrapproduzione, il modo migliore per avviare la crisi ad una soluzione sia quella di erogare reddito, di dare salario alla popolazione, di mettere la popolazione in condizioni di poter spendere, non indebitandosi, ma facendo qualsiasi tipo di lavoro, anche delle forme di lavoro che non hanno una immediata utilità dal punto di vista della valorizzazione del capitale. Il modo migliore è avviare dei lavori pubblici, avviare uno Stato, così, diciamo così, che in inglese si chiama welfare state, uno stato del benessere, uno stato che agisce su vari piani per il benessere della società. Inizia quel periodo che gli economisti chiamano i 30 gloriosi, gli anni che vanno dagli anni 30 fino agli anni 60, che sono tre decenni di sviluppo economico costante. Sviluppo economico costante che è reso possibile anche dal fatto che in quegli anni scoppia la più spaventosa carneficina della storia dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale, che in buona parte è un risultato della crisi del 29, è un effetto del tentativo di uscire da quella crisi con il rilancio della produzione attraverso l'incremento della spesa militare. Sia in America, sia negli Stati Uniti che in Germania, il settore militare diventa il settore trainante della ripresa economica degli anni 40. Ecco, qui ci sarebbe un ragionamento anche da fare sulla funzione del settore militare nel capitalismo di quell'epoca e nel capitalismo di oggi, ma lasciamo perdere. Il punto è comunque che a metà del XX secolo viene crescendo, espandendosi una sfera pubblica dell'economia che intorno agli anni 60 raggiunge la sua pienezza e la sua conformazione, la sua struttura piena. Una situazione di quel genere è una situazione nella quale, per così dire, la società e i lavoratori acquistano un forte potere contrattuale, per mille ragioni, tanto per cominciare che stanno relativamente bene, meglio di come stavano gli schiavi, diciamo così, e quindi acquisiscono la possibilità di studiare, ragionare fra di loro, di avere tempo libero per organizzarsi e così via. Questo crea una condizione in cui nel rapporto fra lavoro e capitale il lavoro tende ad essere sempre più autonomo e quindi sempre più capace di difendere e affermare i propri interessi. Ecco, di qui nasce un processo conflittuale che si sviluppa in modo esplosivo nel corso degli anni 60 e poi degli anni 70. E negli anni 70 un gruppo di economisti, che presto poi saranno seguiti da molti politici, comincia a ragionare su come rovesciare questa situazione, come restituire il comando all'impresa. Il problema del comando d'impresa diventa in qualche modo l'imperativo fondamentale del neoliberismo. Neoliberismo, il ritorno del liberismo in condizioni che sono largamente mutate per ragioni tecniche, ma mutate anche per ragioni sociali e politiche. Il neoliberismo riafferma il principio smithiano della mano invisibile. Se noi rimuoviamo tutti i vincoli e gli ostacoli alla crescita illimitata del comando d'impresa, ne otterremo un miglioramento che coinvolgerà tutti, ne otterremo una diciamo un aumento di produttività e un aumento di qualità del prodotto che da una parte favorirà le forze dell'impresa, che avrà mano libera sulla forza lavoro e dunque potrà realizzare i profitti più alti, ma dall'altra parte favorirà anche la società nel suo insieme e nel solito lungo periodo favorirà anche i lavoratori. Si mette in moto una dinamica che fra gli anni 70 e gli anni 80 effettivamente riesce a rovesciare i rapporti di forza fra lavoro e capitale. Naturalmente bisognerebbe tenere conto anche di alcuni elementi di trasformazione tecnologica che si stanno svolgendo in quegli anni, cioè tra gli anni 70 e gli anni 80 comincia l'introduzione delle tecnologie digitali, all'inizio diciamo delle tecnologie elettroniche, delle tecnologie che rendono possibile la flessibilizzazione del ciclo produttivo, e questo inizialmente serve per scardinare la struttura organizzativa, politica, che si era costituita all'interno delle grandi fabbriche, che aveva dato alla classe operaia una forza politica senza precedenti. Attraverso l'introduzione delle tecnologie di flessibilizzazione, poco alla volta si sgretola la potenza politica della catena di montaggio e si flessibilizza la produzione, ma contemporaneamente si flessibilizza anche l'orario di lavoro, il rapporto fra i diversi gruppi di lavoratori e così via. Si introducono cioè le premesse di quello che poi diventerà il lavoro precario. Quando descriviamo fenomeni sociali, dobbiamo tenere conto che fenomeni di questo genere, tecnici, organizzativi, non sono mai in sé né buoni né cattivi. Il lavoro precario, oggi precario è una parola che sembra indicare il male assoluto. In realtà negli anni 70 una delle parole d'ordine del movimento autonomo, del movimento studentesco, era precario e bello. L'idea che si era affermata tra gli anni 60 e i primi anni 70 era che il vero nemico di un essere umano è il lavoro fisso per tutta la vita, che non c'è niente di peggio che fare per 40 anni ininterrottamente la stessa cosa tutte le mattine ordinatamente, per poi ricavarne una onesta pensione alla fine. E io ricordo che tra il 69 e il 73 la gente che frequentavo per gran parte, ad esempio c'erano degli amici che venivano dal sud italiano, che andavano a lavorare 3 mesi in una fabbrica tedesca. Con i 3 mesi che guadagnavano in marchi in Germania ci vivevano gli altri 9 mesi dell'anno nella loro spiaggia calabrese o salernitana, e se la cavavano benissimo. Ecco, il rapporto tra capitale e lavoro, ma meglio tra capitale e società, era un rapporto tale per cui il livello salariale, tanto per cominciare, la possibilità di trovare lavoro, quindi condizioni di pieno o quasi pieno impiego, per cui era facile prendere e lasciare un lavoro. E poi in fondo anche le condizioni di solidarietà sociale, per cui con 3 mesi di salario più o meno te la cavavi per un lungo periodo di tempo, perché le strutture fondamentali della vita quotidiana erano strutture garantite dalla collettività, dal fatto che appartenevi ad una comunità che ti trovava l'alloggio, se non avevi da dormire, dormivi a casa mia e così via. Quindi diciamo le condizioni culturali in questo avevano una funzione essenziale, le condizioni antropologiche, vorrei quasi dire, le forme di vita, l'idea di una immediata collettività della vita quotidiana, tutto questo agiva come fattore di rafforzamento del lavoro e quindi rendeva possibile una assurdità. A sentirla oggi come la frase precario e bello. Ecco, quindi teniamo conto del fatto che ciò che muta negli anni successivi non è soltanto l'ideologia con l'affermarsi del pensiero neoliberista, ma è l'insieme dei rapporti, le forme tecniche, le forme culturali, le forme della vita quotidiana e così via. Il neoliberismo dunque si afferma attraverso una disgregazione, una destrutturazione della composizione sociale del lavoro degli anni 60, che si era, diciamo così, costituita intorno agli anni 60. Quindi una decomposizione della forma sociale complessiva e l'introduzione di modalità tecniche flessibili che rendono possibile una penetrazione del comando d'impresa molto più capillare e molto più, al tempo stesso, molto più forte, più rigorosa di quelle che esisteva precedentemente. Ecco, dal punto di vista propriamente economico, il neoliberismo si afferma attraverso la dissoluzione progressiva dello Stato sociale. Questo è un primo punto, a cui ne segue immediatamente un secondo, la privatizzazione delle forme che lo Stato sociale aveva assunto. Pensiamo alla scuola, pensiamo ai trasporti. Ecco, nel corso dei 30 gloriosi, dei decenni keynesiani, le forme di produzione, di creazione di servizi che avevano una diretta, diciamo un diretto carattere sociale, erano state identificate come forme di lavoro pubblico. Gli spazi della vita comune dovevano essere cioè coperti da strutture che garantissero una equità nell'esercizio di quelle strutture. Il caso della scuola è certamente quello più illuminante, no? A partire da un certo momento l'interesse della società, ma anche l'interesse del capitale, convergono sul bisogno di una scuola di massa, cioè bisogno di molta gente scolarizzata per la produzione, per il consumo, per la società moderna è necessario alzare i livelli di scolarizzazione. Si costituisce quindi una scuola pubblica sempre più finanziata, complessa, ampia, importante, e questo rende possibile quasi dovunque, tranne negli Stati Uniti d'America, dove la cosa rimane sempre un po' più complicata, rende possibile l'accesso di una parte maggioritaria, a un certo punto della quasi totalità della popolazione, ai livelli diciamo elementari e medi della formazione. Ecco, questo evidentemente costituisce un elemento fondamentale nel rafforzamento dell'autonomia sociale, ma anche al tempo stesso costituisce un elemento fondamentale nella valorizzazione capitalistica. C'è, per così dire, un interesse comune del capitale e del lavoro in questo punto che è la scuola pubblica. Il neoliberismo produce una sconnessione tra interesse sociale e interesse capitalistico e afferma che il comando d'impresa sarà tanto più efficiente quanto più il lavoro e le attività di servizio saranno sottoposte alla dimensione del profitto privato. Inizia quindi un processo che non finisce mai di smantellamento delle strutture pubbliche e di privatizzazione delle strutture pubbliche stesse. Potremmo chiederci, almeno me lo chiedo io perché sono 30 anni che assisto a questo processo, e sembra sempre che siamo al primo giorno. Ormai sono 30 anni che sento dire adesso bisogna privatizzare, siamo moderni, se vogliamo essere moderni dobbiamo togliere di mezzo questi carrozzoni assistiti della scuola pubblica, della sanità pubblica, dei trasporti pubblici, dobbiamo sostituirli con agili strutture private che saranno molto più efficienti, molto più produttive. produttive, offriranno una qualità del servizio molto migliore perché ci sarà la concorrenza tra i vari agenti, e inoltre questo renderà possibile una espansione della partecipazione al servizio. Cioè, sono 30 anni che lo sento dire, 30 anni che queste affermazioni sono sistematicamente smentite dalla realtà di quello che accade, per cui la privatizzazione che Margaret Thatcher fece nel sistema dei trasporti, prima i trasporti pubblici inglesi, i trasporti inglesi erano pubblici, poi negli anni 80 vengono privatizzati, e il primo effetto della privatizzazione fu un'ondata di incidenti ferroviari spaventosi, con centinaia di morti nel corso degli anni 80. I vari spezzoni del sistema di trasporti vennero privatizzati, e ciascuna compagnia privata naturalmente faceva i suoi interessi sulle medesime rottaie, con risultati che per un lungo periodo furono risultati disastrosi. Poi la qualità del servizio cominciò a peggiorare in maniera sistematica, anche se contemporaneamente si creavano settori, la TAV per esempio, che invece offrivano un servizio molto più alto di quello che viene offerto mediamente. Comunque, il punto è che, nonostante l'evidente contraddizione fra le dichiarazioni e la realtà, questo processo non è mai finito, al punto che talvolta mi chiedo, ma com'è possibile? Se sono 30 anni che privatizzano, dovrebbero già avere privatizzato tutto. Come mai c'è sempre invece un'ansia di privatizzare come se tutto fosse ancora pubblico? In realtà la questione è un'altra. La questione è che il processo di privatizzazione è un processo infinito, perché la società continuamente crea delle strutture di vita comune. Per esempio, ad un certo punto la società produce Internet. Ecco che Internet è uno spazio comune ed che per lungo tempo è essenzialmente pubblico, fino a quando inizia un processo che non finisce mai di privatizzazione di settori crescenti dello spazio virtuale. Ecco, la privatizzazione non è solo una distruzione dello stato del sistema pubblico e una sottomissione di parti del sistema pubblico agli interessi del privato. È anche un costante rincorrere la creazione di comune da parte dell'interesse privato ed una continua costruzione di enclosures private, di recinzioni private, laddove l'energia, il lavoro, l'intelligenza comune hanno creato degli spazi pubblici. Ecco, questo è in qualche modo, diciamo, il processo di destrutturazione dello Stato sociale, dissolvimento dello Stato sociale e privatizzazione dei servizi che antecedentemente erano stati offerti dallo Stato sociale, processo che si svolge nell'arco dell'ultimo trentennio e che non accenna ad interrompersi, anzi viene costantemente rilanciato con un'ansia, starei per dire, degna di miglior causa. Non tutto si riduce a questo. Il neoliberismo contiene naturalmente altri elementi ideologici e politici decisivi, uno dei quali è quello dell'abbattimento dei vincoli giuridici. E qui si apre una questione che scopriamo essere decisiva nel lungo periodo. Che cosa vuole dire? Che poniamo, ci sono paesi o ci sono stati paesi nei quali prima di aprire una fabbrica o di produrre qualcosa devi dimostrare che la tua produzione non avrebbe avvelenato l'atmosfera nei 100 chilometri circostanti. Allora il neoliberismo sostiene che una cosa di questo genere è gravemente lesiva della libertà di impresa e soprattutto danneggia l'interesse di tutta la comunità, perché riduce la possibilità di creare lavoro. Se noi permettiamo a chiunque di produrre in qualsiasi condizione, a prescindere dagli effetti di avvelenamento dell'atmosfera, questo permetterà naturalmente a imprenditori di dare lavoro a un numero crescente di persone. Dunque è nell'interesse dei lavoratori, sostiene il neoliberismo, che il vincolo giuridico di tipo ambientale, per dirne uno, venga abolito. Recentemente ho sentito che un signore che si chiama Newt Gingrich, uno di questi moralisti, non finisco la frase perché c'è una signora nella sala, ma insomma uno di questi moralisti del Partito Repubblicano, il signor Newt Gingrich recentemente ha detto che bisogna smetterla con il tabù del lavoro minorile e che sarebbe ora che nelle scuole americane le pulizie le facessero i ragazzi che studiano, anche se hanno 8 anni, perché no? Dopodiché poi li mandiamo nuovamente in miniera e siamo a posto. E, ecco, anche questo, quello del lavoro minorile, è un vincolo che ostacola il comando di impresa, tant'è vero che aziende come la Nike ad un certo punto hanno scoperto che in Indonesia si potevano fare lavorare i ragazzini di 10 anni, che producevano perfettamente, anzi avevano una capacità e una velocità che talvolta gli adulti non avevano. Ecco, fino a quando poi una campagna d'opinione ha costretto la Nike a rinunciare a questo, ed ecco che il vincolo si ricostituisce a partire dalla società medesima. Cos'è un vincolo giuridico? È una limitazione alla possibilità di sfruttare illimitatamente la natura e gli esseri umani, diciamo così. Ma cos'è dal punto di vista neoliberista un vincolo? È una limitazione alle possibilità di espansione dell'impresa. E dunque su questo terreno, il terreno dei vincoli, si verifica un altro degli scontri decisivi dell'ultimo trentennio, decisivo soprattutto perché il neoliberismo si intreccia, non è la stessa cosa, anzi, qui bisogna essere chiari, ma si intreccia con un altro ismo, che è un altro processo, che è quello della globalizzazione. E il processo di globalizzazione è essenzialmente un effetto della applicazione su larga scala delle tecnologie di rete, però si incrocia sul terreno politico e organizzativo con il neoliberismo. Perché? Perché le tecnologie digitali rendono possibile una globalizzazione del processo produttivo a prescindere dai limiti di spazio e di tempo. La produzione di una merce può avvenire contemporaneamente a Rio de Janeiro, a Bangkok e a Milano, grazie alla continuità garantita dalle tecnologie digitali. Ma contemporaneamente, e questo è diciamo l'aspetto puramente tecnico della globalizzazione, accanto a questo però l'impresa richiede un elemento politico o giuridico, cioè la rimozione degli ostacoli che rendono, diciamo, limitato lo sfruttamento della forza lavoro. Per cui se volete che io produca a Bangkok, dovete permettermi, di far lavorare la gente ad un salario che è un quarto di quello che pagherei negli Stati Uniti d'America. Ecco che la globalizzazione si intreccia con il neoliberismo, perché il neoliberismo procede a rimuovere gli ostacoli sociali, politici, sindacali rispetto allo sfruttamento integrale della forza lavoro e della forza stessa della natura. Ecco, quello che chiamiamo neoliberismo è una ipotesi teorica, ideologica, ma nella storia degli ultimi 30 anni si intreccia con una serie di processi di ristrutturazione sia del sistema tecnico produttivo sia del sistema sociale e della forza lavoro. Ecco, io mi rendo conto del fatto che ho letto soltanto le prime due righe della pagina che mi ero proposto, il che vuole dire che probabilmente noi svolgeremo l'intero corso su questa intervista di Maurizio Lazzaro. Volevo chiedere una cosa, prego. La privatizzazione che dicevo prima, che diceva appunto che era un processo infinito, e quindi diciamo la formazione di spazio, di uno spazio sociale, come potrebbe essere uno spazio appunto pubblico, libero, pubblico, come quello che era internet prima della sua spartizione. Quindi diciamo a livello di immaginario, la formazione anche a livello di immaginario, quindi la volontà prima di tutto come idea di uno spazio pubblico, è necessaria al processo di privatizzazione, sempre in vista, cioè come progredire appunto con questo ciclo che descriveva prima. E se è così, se la privatizzazione finalmente si attuasse secondo la logica che è appunto come processo finale, di conseguenza mancherebbe il motore per poi procedere? Io ti risponderei grosso modo di sì. E quello che dici tu è denso di implicazioni. Perché cosa stai dicendo? Stai dicendo che l'innovazione non è, come pretende l'ideologia liberista, l'effetto del comando d'impresa. L'impresa innova. Non è vero, l'impresa non innova niente. L'impresa fa le enclosures, cioè l'impresa recinta ciò che l'energia collettiva della società, in particolare l'energia intellettuale della società, ha prodotto. Ma questo, diciamo, è proprio nella storia del capitalismo fin dalle sue origini. Sai che si usa considerare l'inizio della storia del capitalismo moderno nel momento in cui, fra il 1300 e il 1600, in Inghilterra vengono realizzate le enclosures, cioè vengono recintati degli spazi di terra comune in cui la gente si preparava, insomma, si faceva da mangiare, si produceva i suoi ortaggi e la propria vita. E ad un certo punto i landlords decidono che quel territorio non è più di proprietà comune ma diventa di proprietà privata, e dunque vengono espulsi coloro che poi debbono andare nelle città, debbono aggregarsi nelle città e diventano l'esercito industriale. E quindi fin dall'inizio c'è un processo di espropriazione del comune da parte del privato. E questa storia, in un certo senso, accompagna l'intera storia dello sviluppo capitalistico fino all'epoca presente, in cui lo sviluppo è essenzialmente sviluppo innovativo, cioè non c'è semplicemente un allargamento, ma c'è una innovazione. Sì, ma l'innovazione chi la fa? Io in realtà mi riferivo a una cosa specifica. Per esempio, mi è venuto in mente mentre parlava dell'acqua pubblica, perché sì, diciamo è una cosa che sembra invece andare in controtendenza con il processo invece che di privatizzazione, eccetera. E quindi mi chiedevo se in realtà io mi riferivo proprio all'immaginazione, cioè alla volontà, alle persone che si mettono insieme per la volontà appunto di creare uno spazio pubblico e quindi di mettersi contro a questo processo. Mi chiedevo se questa opposizione fosse vitale al processo di privatizzazione stesso, oppure fosse in realtà, oppure se non ci fosse nessun tipo di opposizione, automaticamente, non automaticamente. Ma io non la metterei in termini di opposizione, la metterei in termini di innovazione, cioè è l'innovazione crea il territorio su cui poi giungeranno le recinzioni della privatizzazione. Questo non vuole dire che l'opposizione favorisca la privatizzazione, cioè la difesa del carattere comune di uno spazio non favorisce la privatizzazione. La creazione di uno spazio apre la porta alla privatizzazione, certo. Questo non vuole dire che la società deve smettere di innovare. Sì, no, è che il discorso è che se diciamo, non lo so, ci sono 100 persone, vengono convinte tutte 100 che il processo di privatizzazione sia la soluzione, sì, e che soprattutto più che sia la soluzione, che sia il modo in cui deve essere organizzato, in questo caso sì, la produzione. Mi chiedevo se poi in realtà come si fa a immaginare una maniera diversa, che secondo me è proprio l'immaginazione di un altro sistema, e mi chiedevo se appunto il fatto di non, cioè se le persone non riescono in più a immaginare un altro sistema, che poi è una cosa un po' assurda perché in realtà per fortuna ci si immagina sempre in qualche maniera qualcosa di diverso, qualcuno si immagina sempre qualcosa di diverso. No, mi chiedevo appunto, visto che io pensavo ai miei genitori, per esempio, che parlando di queste cose appunto mi trovavo molte cose in comune, ma soprattutto una cosa che diciamo strideva con il pensiero che molti di noi si rendono conto di avere, che è appunto quello del pubblico, e lo vedono proprio come una minaccia, probabilmente, cioè perché appunto venivano probabilmente da un altro tipo di storia, non lo so, cioè sì, lo so, insomma, da quello che ho parlato con cui sì, sì, ho potuto capire del loro, però era proprio una diciamo l'immaginario, ecco, della privatizzazione veniva vista come, e quindi lo spazio pubblico proprio anche a livello mentale ha un'altra forma, un'altra forma, sì. E quindi mi chiedevo come si fa a immaginare uno spazio, cioè come si fa a immaginare uno spazio pubblico che sia inattaccabile, esatto, da parte privata. Sì, o che sia inattaccabile, o che comunque ritornare, com'è possibile che si ritorni a immaginare uno spazio pubblico? C'è un problema di guerriglia quasi, come lo stai mettendo tu, no? Cioè di guerriglia nel senso di... Sì, di immaginario, difesa degli spazi. Sì, cioè io in realtà la faccenda è poi complicata, perché non puoi pensare che si tratti semplicemente della difesa di uno spazio, di alcuni spazi. Il problema è quello di come mettere in funzione un modello generativo d'altro genere, un modello capace di produrre qualcosa che non può essere espropriato, o di creare condizioni di vita sociale che si sottraggono all'espropriazione. Che siano, e qui non io dico direi stabili, però che siano perlomeno. Sì, credo che stiamo andando molto vicini all'argomento di cui dovremmo parlare, che è quello del debito. Cioè, qui come si fa? E io ti rispondo, ci si sottrae al debito. Ma cos'è il debito? Qui proprio la cosa di cui parleremo è del debito come elemento economico e psichico al tempo stesso di sottomissione della società al dominio d'impresa. Sì, anche come motore produttivo, ma soprattutto produttivo a livello immaginativo, di immaginario. Sì, quello... sì, io capisco. Va bene, dunque qua, tu sei in questa lista? Sì. Allora firma. Lo stesso. Vabbè. Un po' di problemi di lavoro. Poi sembra quasi, per come abbiamo parlato del debito fino adesso, sembra quasi una forma di, mi viene da pensare come collegamento volante di pensiero magico che viene applicato ad ognuno di noi come singoli, no? Cioè, il fatto che ci venga come imposto questa specie di quasi malocchio, Dio, è come se la società avesse fatto come le prove generali, imponendo un debito a dei paesi al di fuori di sé, del primo mondo, e poi abbia perfezionato una tecnica che sta rivolgendo in modo capillare verso poi se stesso, no? Con il debito del primo mondo con il terzo, sì, sì. Del primo mondo con il primo mondo con se stesso. Sì, sì, no, questo del Malocchio è interessante, perché una delle cose che poi vedremo, di cui parla Lazzarato in questo suo libro, che ho un po' accennato a un libro che sta uscendo in questi giorni in Italia, che si chiama La fabbrica dell'uomo indebitato, di Maurizio Lazzarato. E Lazzarato spiega che in alcune lingue, il tedesco, dice lui, ma anche, non so se lo sa, ma forse gli è sfuggito, anche in aramaico, la lingua in cui parla Gesù Cristo, la parola debito e la parola colpa si dicono nella stessa maniera. In tedesco la parola è schadet. Qualcuno conosce il tedesco? Ecco, schuld. Debito e colpa si dicono con lo stesso segno, con la stessa parola. Ecco, la questione della colpevolizzazione. È il peccato originale. Per noi, per la generazione nostra, è un peccato originale, perché nasciamo già con il debito addosso. E cos'è il debito? Debito come... soprattutto come qualcosa che tu devi rimediare con delle risorse, con le tue risorse che ti qualificano come individuo e che dovresti poter indirizzare per la tua felicità e che invece indirizzi per il tuo sostentamento, per il rimedio di errori di altrui, diciamo. Cioè per la tua vita, la sopravvivenza invece che per la tua vita, possiamo dire in qualche modo. In senso più astratto ancora, cos'è il debito? Un dovere verso qualcuno. Sì, tanto è un dovere. Debito, ciò che è dovuto, debitum. Però se ci chiedessimo materialmente, cos'è? Cosa accade nel contrarre un debito? Cosa fai quando c'è una forma d'obbligo? Mancanza. C'è una forma d'obbligo, tu contrai un obbligo. Attraverso cosa lo contrai l'obbligo? In principio più che quella cosa in sé, un prestito di denaro, mettiamo, è un obbligo etico, no? Ecco, tanto c'è l'obbligo etico, c'è una forma, e quindi la colpa. Sì, c'è l'educazione morale che non ci, pagare ci istituisce. Dobbiamo qualcosa a qualcuno, e quindi in realtà nei confronti di questa persona sentiremo sempre, sino a che non abbiamo contratto il debito, una sorta di obbligazione. Ma tu che debito hai contratto, scusa? Ah, io ho un sacco di denaro. Tu hai contratto un debito? Si potrebbe rispondere. Nello specifico, rispetto all'argomento che trattiamo, in realtà no. Qualcuno potrebbe dirti, come no? Sei andato a scuola? Certo, sì. È un debito. Tu hai un debito. Dal presupposto che quello non sia un diritto... con i tuoi genitori. Un diritto, allora sì. Se partiamo dal presupposto che non sia una, come dire, qualcosa che mi è dovuto, ma non in quanto meritevole, in quanto capace, in quanto, come dire, membro di una società che riconosce un valore in questa cosa, beh, allora sì, sono debitore, ma però significa, come dire, prevaricare un concetto che dovrebbe essere più profondo, quello del diritto. No, sì, beh, insomma, comunque qui stiamo già elaborando la questione. Cosa dici? No, dico che anche alla fine della morale cristiana il debito rappresenta la vita. Sì, la vita è un debito. Il peccato originale istituisce una condizione debitoria dell'uomo nei confronti. È vero che sarebbe venuto Gesù Cristo per sciogliere i nostri debiti, tant'è vero che da quel momento in poi noi diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. Sì, certo, io li rimetto i miei debitori, se loro rimettono i miei, io rimetto il loro. Ma insomma, di cosa stiamo parlando in realtà? Stiamo parlando, adesso cerco di andare nella direzione che più mi interessa, senza escludere quello che diceva lui, che è giusto. Io vorrei dire, stiamo parlando di un atto di linguaggio, una promessa. Tu mi dai una vacca e io ti prometto che ti restituirò due caprette nell'arco del prossimo anno. E qui abbiamo un debito che ha carattere materiale, un debito nel quale è possibile riconoscere un riferimento. Mi dimentico, tu mi hai dato la mucca e io ti devo dare, non so, un altro bene materiale, che tu te lo puoi mangiare, farci qualcosa e così via. C'è intanto un atto di linguaggio, cioè io ti prometto che, questo è decisivo, gli atti di linguaggio, come sappiamo, si possono sciogliere con un atto di linguaggio. Cioè, metti che io non ce le ho le due caprette da darti, che fai, mi ammazzi per questo? No, ci rivediamo e ci mettiamo da... Tipo che di solito nei, non so, anche quando nei primi accordi così, di solito c'era sempre il garante che si dava, che era il prete di solito, oppure, sì. Però il neoliberismo ha abolito il garante, sennò sarebbe l'autorità statale, non ci deve essere. Qui nella storia dell'economia degli ultimi 40 anni succede a un certo punto che il presidente degli Stati Uniti d'America abolisce il garante, dice Dio non c'è più nell'economia finanziario, lo fa con un atto molto interessante di cui parleremo, cioè proprio viene dichiarata quella che viene, che si definisce la inconvertibilità, ovvero viene abolito lo standard fisso degli scambi internazionali, cioè il presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon nel 1971 dice il dollaro si sottrae al sistema di scambi fissi tra le diverse monete. Perché? Perché il dollaro si autovaluta, decidiamo noi il valore del dollaro e non il golden standard o lo standard stabilito a Bretton Woods. Insomma, finisce il regime della convertibilità universale, che è come dire finisce Dio, non c'è più il giudice ultimo e il dollaro si autodefinisce Dio per se stesso. Questo è un atto importantissimo nella storia dell'economia finanziaria, in qualche modo, se si vuole, la finanziarizzazione dell'economia di cui parliamo oggi si può far risalire in ultima analisi proprio a quell'atto lì. Per cui, tolto il garante, rimane l'atto di linguaggio. Io ti prometto che... Dopodiché poi ce la vedremo. Quando ci si scambia qualcosa nella sfera linguistica, naturalmente la ridefinizione è continua ed ha un carattere, e qui si apre tutta la questione semiologica a cui accennavo, ha un carattere che è difficile ricondurre ad un referente obiettivo. È il problema del rapporto fra segno e referente di cui parleremo. Ma dicevo questo semplicemente per ritornare sulla questione con cui ho aperto oggi, e cioè perché in un corso di sociologia della comunicazione ci si occupa del denaro, cosa che può chiedere il nostro amico coi baffi, che c'entra? Questo, sono venuto qui a una lezione di economia, di sociologia della comunicazione, sento parlare di economia finanziaria. In realtà, come adesso cerco di ripetere, l'economia finanziaria è essenzialmente definibile in termini comunicologici e il denaro può essere definito come un medio, tant'è vero che ho esordito con una frase di un economista americano che si chiama Robert Sordello, che dice money and language have something in common, il denaro e il linguaggio hanno qualcosa in comune, sono niente eppure muovono tutto. Ecco, da qui partiamo per ragionare sulle analogie fra denaro e linguaggio, ma anche sullo specifico modo di funzionamento del denaro. Cos'è il denaro? Lui diceva prima un mezzo di scambio. È chiaro che è un mezzo di scambio, ma è solo questo o è anche qualcosa d'altro? Io affermo che è anche qualcosa d'altro. È sì un mezzo di scambio, Marx dice un equivalente generale, ma è anche qualcosa d'altro, cioè è un fattore di mobilitazione delle energie collettive. Però lì agisce esattamente come il linguaggio, perché non è una mobilitazione che, diciamo così, è garantita da qualcosa o da qualcuno, è garantita unicamente dalla potenza performativa del linguaggio stesso. Beh, così. Tra l'altro è fatto di linguaggio. Tra l'altro il denaro è fatto di linguaggio. Questo lo approfondiremo parlando proprio di finanziarizzazione. Io direi che per oggi ne abbiamo abbastanza. Questa intervista che io riporterò con me, se qualcuno di voi ha o può trovare Alias di Sabato, supplemento al Manifesto di Sabato, se la procura, altrimenti io poi magari la prossima volta faccio un po' di fotocopie, così che vi faccio avere questa intervista. È, come ripeto, un'intervista molto densa sul piano, spesso il Manifesto fa delle cose che per capire un articolo devi passarci sopra una settimana, questa è una di quelle. È un'intervista molto densa sul piano concettuale, introduce un libro, Questa fabbrica dell'uomo indebitato di Maurizio Lazzarato, che a sua volta è un libro molto diciamo attuale, e la lettura di questa intervista ci permetterà già di entrare in buona parte nelle questioni delle quali dobbiamo parlare. Io ci rivediamo domani, diciamo pure a mezzogiorno, e io per il momento non vi mando niente, però poi chi lo sa, magari qualcuno di voi domani non c'è, per cui è meglio che io cominci fin da subito a raccogliere i vostri indirizzi, perché una cosa che intendo fare prossimamente, non oggi, ma insomma prossimamente, è darvi dei pezzi di bibliografia, non solo dei titoli, ma anche dei capitoli di questo, di quello, e soprattutto di materiale che non trovate in Italia. Ecco, spero che qualcuno di voi possa leggere in inglese, perché molte delle cose che vi manderò sono per il momento in inglese, e diciamo alcune sono via di traduzione, come il libro di David Graeber, e così via. Basta. Spegni per me.